Una volta, quando Universo era giovane ed eravamo tutti politicamente molto meno corretti di oggi, si raccontavano le barzellette sui matti. Il genere oggi non è più praticato né praticabile, e non perché quelle storielle avessero un contenuto particolarmente offensivo, visto che le manifestazioni di follia di cui riferivano non erano granché diverse da quelle che caratterizzano il comportamento quotidiano di tutti, ma perché il fallimento della nostra società nell'affrontare il problema del disagio mentale è talmente clamoroso che toglierebbe la voglia di scherzare a chiunque. Una tuttavia me la ricordo, e mi permetterò di ricordarla anche a voi. Trattava di un signore di buona volontà in visita al classico manicomio che si imbatte in un cortile in un gruppo di ospiti intenti a una stranissima occupazione. Uno a turno pronuncia dei numeri ad alta voce, 7, 12, 60, e gli altri ogni volta si mettono a ridere a crepapelle. Il tipo chiede spiegazioni a un medico di passaggio e gli viene risposto che i dirigenti si stanno raccontando le barzellette. Come? Ribatte. Questi sono solo numeri. Appunto, spiega l'interlocutore, loro hanno un libro dove tutte le barzellette in circolazione sono elencate e numerate. Se si pronuncia un numero, ricordano la barzelletta relativa e se gli piace ridono. Ah, interessante, fa il tipo. Voglio provare anch'io. Si unisce al gruppo, fa segno di tacere, si mette al centro e comincia anche lui a dare, come si dice, i numeri. 32, grida. Silenzio di tomba. 16, insiste, indifferenza generale. 41, 93, 70, e nessuno reagisce, fosse pure con l'ombra d'un sorriso. Ma perché non ridono, chiede alla fine un pochino seccato. E fa il medico con aria saputa, le barzellette bisogna saperle raccontare. Non fa ridere granché, lo so, ma non ve l'ho ricordata per questo. Il fatto è che chiunque abbia inventato a suo tempo questa storiella aveva una capacità profetica straordinaria, accentrato chissà con quanti anni d'anticipo l'attuale campagna elettorale del presidente Berlusconi. Anche in quella i numeri abbondano, come avrete notato, e su quei manifesti 6x3 accanto a quello strano ritratto di profilo a labbra serrate che lo fa somigliare a un delfino araldico, sullo sfondo del tricolore che male mai non fa, il leader di Forza Italia ne esibisce un repertorio straordinario. 28.622.000 italiani pagano meno tasse, ci garantisce. Meno 17% di furti nelle case, proclama. E poi meno 40% di immigrati clandestini, 7.466 miliardi in più per la scuola, 1.353.000 nuovi posti di lavoro regolari e via dicendo. Sono naturalmente barzellette anche queste, ed è altrettanto improbabile che in sé facciano ridere. In fondo si ride sempre di qualcosa. La risata presuppone l'avvenuta ricezione di un messaggio dotato di un significato decifrabile, e quelle cifre non significano nulla. Per apprezzare il valore di una quantità X in più o in meno di un Y altro, si deve poter disporre di ragionevoli informazioni sull'Y, per non dire del lasso di tempo in cui si è realizzato l'incremento o il decremento e di come lo si è calcolato. Io mi compiacerò del fatto che 28.622.000 italiani paghino meno tasse quando avrò appurato se per avventura non gli tocca pagare molto di più qualcos'altro. Che si registri il 40% in meno di immigrati clandestini è notizia che potrà rallegrarmi solo nel caso che il discorso generale sull'accoglienza e l'integrazione risponda a dei parametri che considero soddisfacenti. E prima di applaudire al 1.353.000 nuovi posti di lavoro regolari, voglio assolutamente sapere cosa si intende per regolare. Ai numeri si può far dire di tutto, e il fatto di essere espressi per stringhe numeriche non aggiunge nulla alla ben nota implausibilità dei messaggi elettorali. Ma le barzellette bisogna saperle raccontare, e in questo campo si sa il nostro uomo non ha uguali. I suoi numeri potranno essere poco credibili, potranno sembrarci esagerati o semplicemente irritanti, ma a queste minime manchevolezze ovvia la potenza di fuoco. Tutti quei manifesti, tutti con lo stesso profilo del finacio, con lo stesso tricolore e la stessa impudica esibizione numerica, non possono alla lunga che fare effetto. Di uno capace di far affiggere sui cantoni 1.823.646 manifesti con la sua faccia, non dobbiamo credere che non sia capace di tutto. Il medium notoriamente è il messaggio, e in questo caso il messaggio è forte e chiaro. È quello di chi si considera comunque più forte e garantisce ad amici e nemici che chi non si affretta a sottomettersi avrà a che fare con lui. E se per confermare questo basilare principio bisogna ricorrere a qualche menzogna clamorosa, poco male. In un mondo che di menzogne praticamente vive, anche la capacità di essere il più bugiardo di tutti in cifre come parole al suo peso. E permettetemi, per finire, di raccontarvi non una barzelletta, figuriamoci, ma un aneddoto storico. Sembra che un tempo, secoli fa, uno di quei feroci condottieri dell'Asia centrale, Tamerlano, Gengis Khan, uno di quelli, avesse chiesto al più ripetuto pittore dell'impero di fargli il ritratto. L'artista, lusingato dell'incarico, fiducioso nella ricompensa, produsse un'opera di rara somiglianza. Ma il truce individuo era calvo, mezzo guercio da un occhio, non si sa per via di una freccia nemica o di un lifting mal riuscito, e di statura assai bassa. L'immagine ritratta non gli piacque affatto e ordinò che l'artista venisse immediatamente impalato. Fu convocato un altro pittore che, capita la lezione, prestò al modello fluenti capelli, occhi da falco e una statura da fare invidia a Fassino. Ahimè, quell'interpretazione lusingatrice faceva risaltare ancora di più pesantemente agli occhi di tutti i difetti che intendeva celare, e anche il secondo artista finì sul palo. Dopodiché capirete, non fu facile trovare negli ambienti artistici della capitale qualcuno disposto ad accettare la commissione, finché non si presentò un imbrattatele qualsiasi che, pur deboluccio nella prospettiva e scarsamente dotato nel resto, riuscì a soddisfare il sovrano, lo ritrasse appunto di profilo, con l'elmo in testa e a mezzo busto. E beh, elmo a parte, tutto questo non vi ricorda qualcuno?